Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. You see the go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold type. I got faith in you, baby. Anche senza Pisapia, Speranza annuncia lo strappo, basta aspettare. MDP non si allea con Renzi, principale titolo del Corriere della Sera. E invece Repubblica, Veltroni, Ius Soli e Movimento 5 Stelle e i cattolici non possono tirarsi indietro. La Stampa, 2 milioni in corsa per la scuola per un incarico da bidello, previsione record per i prossimi concorsi, disponibili 20.000 posti in 3 anni. Il PD salva Berlusconi, può fare il capo politico da pregiudicato, il Fatto Quotidiano. E questo c'è anche sulla Stampa, legge elettorale, primo sì in commissione senza la norma anti-Berlusconi. Questi sono alcuni dei titoli dei giornali di oggi. Buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Questa devo non aggiungere... è una rassegna stampa. No, però devo aggiungere anche le piazze del dialogo. In realtà Repubblica, ho letto il titolo più grosso, ma il primo titolo è le piazze del dialogo. Da Barcellona a Madrid, manifestazioni per l'unità. E all'interno c'è anche un'intervista al premier Rajoy, che però purtroppo cioè dice molto precisamente: impediremo qualsiasi atto di indipendenza, che in un momento in cui si sta cercando il dialogo forse non è l'affermazione migliore. C'è anche questo: troppi droni in aumento, i sequestri, ora nuove regole, in prima pagina di Repubblica. Noi parleremo più avanti di dei centri del riuso, perché tutte le città hanno l'isola ecologica, lo sappiamo, dove si portano le cose a morire, a diventare rifiuti. Ma per, se vogliamo attivare realmente l'economia circolare, dobbiamo, in ogni città dovremmo avere, ce l'ha insegnato il maestro Ercolini, certo, dei centri del riuso. Allora raccontiamo la storia di Malnate. A un anno dal via, metà degli oggetti che sono stati portati sono stati recuperati, sono diventati nuovi passeggini, nuovi divani, nuovi armadi, nuovi tutto per chi ha bisogno. Tutto nuovo, ma tutto che già era stato prodotto. Esatto. E quindi, cari ascoltatori, vi chiederemo più avanti, quando dopo l'intervista, ma anche da adesso, se volete all'800 24 00 24, dopo l'intervista col sindaco di Malnate, vi chiediamo: voi come fate nel vostro comune? Dove portate gli oggetti di cui vi volete disfare, ma che, come capita spesso, potrebbero non diventare subito dei rifiuti? Un divano, un tavolo che magari appunto volete cambiare, ma io a volte le metto in vendita online sui vari siti, ma certo, quasi mai riesci a vendere, non vendo mai. Allora poi alla fine bisogna arrendersi, va in discarica. Ma è un peccato. Certo. Davanti alla discarica ci sono spesso gli zingari che, se vuoi, li prendono gli oggetti. Però a me non mi va, perché poi vedo che li abbandonano, li buttano per strada. E quindi, perché li prendono allora? Non lo so, o li rivendono, oppure magari li servono, pensano che li servono, poi magari le lasciano lì per strada e non va bene. Allora una soluzione è questa, il centro del riuso. Noi vi chiediamo, cari ascoltatori, nei vostri comuni, controllori dei fatti, qual è, come funziona nel vostro comune? C'è il centro del riuso oppure siete costretti a buttar via cose buone? 800 24 00 24, questo però più avanti. Poi naturalmente cerchiamo un personaggio della settimana. Personaggio della settimana. Vado subito con l'indizio, così bam. È un combattente. Pensate, gli ultimi 7 giorni, una notizia, un personaggio e un combattente. 800 24 00 24. Si vincono i biglietti per la mostra Egitto. Allo splendido MUDEC di Milano. Allora, abbiamo anche la notizia da urlo. Ce l'abbiamo la notizia, sì. Questa è tua, Carlo. Ce l'abbiamo, Gran Bretagna, arriva la bocciatura, pesto da supermercato troppo salato. Sono male. Anche un mezzo esperto, avendo ieri presentato il campionato del mondo del pesto a una delle eliminatorie, perché il vero campionato del mondo del pesto sarà il 17 marzo a Genova, ma ieri a Milano ne ho presentata una e abbiamo parlato anche di questa notizia, perché pare che gli inglesi si siano lamentati del prodotto del pesto, chiamiamolo così, del pesto industriale, perché è quello spesso il problema. Il pesto è stato annunciato ieri sia dall'assessore, c'era pure Totti presente, è il sugo italiano, anzi no, è il sugo in generale per la pasta più venduto al mondo, ha superato il ragù. Ma il problema è che secondo me loro ce ne mettono troppo di pesto, quindi gli viene fuori troppo, ce ne vuole poco di pesto. Un po' è quello, un po' è che in realtà, come tutti sappiamo, il vero pesto è solamente quello fatto al mortaio, perché tutti i pesti industriali sono obbligati o a pastorizzare per la questione della conservazione, quindi in quel pesto lì c'è molto più sale, però il pesto vero non è quello. Infatti questa in realtà è una notizia da urlo, perché è incredibile che la Gran Bretagna, diciamo, dopo il prosecco, come dicono, esatto, dopo il prosecco attacchi pure il pesto, quando uno dice ma come mangiate voi, nel senso che venire a dire come mangiamo noi ci sembra un po' strano, ma in realtà potrebbe essere anche una buona notizia, perché questo potrebbe voler dire per la Liguria di iniziare a portare del pesto vero, ovvero del basilico DOP Ligure, in Gran Bretagna. Allora, tra poco torniamo, 800 24 00 24, cerchiamo un personaggio della settimana, è un combattente, poi torniamo con il giornale, tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ok, ok, ok, ok. I'm gonna try to make her move, but everything feels wrong. I want to find, she's always trying to make, but know she's strong. She leaves a plastic case and all the steaming dress she buys. She bids you go by here and you look fine, you look fine. Ok, ok, ok, ok. Battisti, l'assassino coccolato, non è una vittima del sistema, l'ex terrorista tornato libero con la foto del Brindisi in aeroporto. Tutti i giornali riportano, questo era il Corriere della Sera, riportano la foto con la faccia di Battisti che ha brindato girandosi verso l'obiettivo dei fotografi mentre appunto rientrava. Credo che fosse in aeroporto dopo che appunto era stato prima arrestato di Campo Grande, esatto, e poi liberato. E insomma, l'assassino coccolato, scrive Pierluigi Battista, non è una vittima del sistema. Battisti, che è accusato di diversi omicidi, condannato con sentenza definitiva in Italia per diversi omicidi, vediamo quali altri giornali. Il brindisi osceno di Battisti, l'ultima sfida all'Italia, scrive Il Secolo XIX. Anche La Stampa, quel brindisi osceno di Battisti, perché in effetti è il brindisi che in questo momento dà fastidio. Ma c'è anche intanto la faccia di un simil Berlusconi che campeggia sui giornali di oggi, ma in realtà la faccia di Tony Servillo che sta dando, diciamo, l'anima, il volto a Silvio Berlusconi nel film di Sorrentino, Berlusconi la vera finzione. La foto di Servillo sul set di Sorrentino gli assomiglia secondo te? Bah, non moltissimo, soprattutto anche se questa smorfia che mi sembra forse gli aveva molto Servillo, Servillo in quel momento, che la faccia molto Servillo, molto ruga, molto interpretazione, molto aria così, esatto, insomma. Però pare che questa sia la prima foto di Tony Servillo nei panni del cavaliere, quindi molti giornali la riportano, l'ennesimo film. A proposito di Berlusconi, bisogna anche dire che le vicende di Silvio si intrecciano con quelle internazionali della Russia, perché ieri Silvio Berlusconi è volato in Russia, un legame che resiste a governi amori, scrive il Corriere. Silvio vola a festeggiare l'amico Vladimir per il 65esimo compleanno. Berlusconi regala al leader di Mosca anche un copripiumino. Attenzione, un copripiumino. Il copripiumino che gli ha regalato è questo. Ci sono loro due fotografati che si stringono la mano, stampati su questo copripiumino. Un mix, scrive la giornalista Paola Di Caro, di pubblico e privato, sì, di formale ed intimo, sul quale che simboleggia una relazione strana, questa amicizia sulla quale si è molto scritto e si è forse poco capito. Mi permetto di fare un commento, spero che non venga preso in maniera politica, però una porcata di, diciamo, rara bruttezza, si può dire, eh? Cioè un copripiumino con su una foto stampata di loro due che si danno la mano. Tu immagini tutte le sere che vai a dormire, Putin va a dormire, entra in camera sua e ha questo gigantesco copripiumino con su Berlusconi che gli stringe a lui la mano. Però se sei Putin può darsi che questo ti possa piacere, a me a te non piacerebbe. Tu se dici, sei Putin è quella classica, è il buon gusto sovietico. Allora bisogna anche ricordare che ieri Putin è stato festeggiato in altro modo dal capo dell'opposizione, da uno dei leader principali dell'opposizione, Navalny, che ha organizzato proprio in occasione del 65esimo compleanno di Putin delle manifestazioni in tutto il paese, 80 città, ci sono state le solite scontri con la polizia, repressioni e arresti. E questa cortei è fermi in Russia, Putin gli auguri del blogger Navalny, questo scrivono i giornali di oggi. Invece sempre sulle piazze, sì, diversi giornali ovviamente riprendono la questione delle persone in piazza sia a Madrid sia a Barcellona con i cartelli con scritto hablamos, dialogare, ovvero dialoghiamo, sì, parliamo, parliamoci insieme nelle due lingue, sia in spagnolo sia in catalano, che in realtà è una, sì, buona notizia. A proposito di notizie buone e cattive, abbiamo intanto il secolo XIX che fa questa scoperta: le fake news sempre esistite per i genovesi. Il termine dialettale è il più efficace per descrivere le false notizie. È una curiosità del secolo XIX che ha scoperto, che ha riscoperto questa antica parola che risale addirittura al 1000, all'anno 1000, 1100, le musse per dire delle cose poco vere. Il significato è un altro. Risale anche, l'altro significato risale sicuramente a prima del 1000, diciamo proprio alla notte dei tempi, ad Adamo e Eva. Soprattutto Eva. La vulva, dice così il secolo XIX, e però poi il significato, secondo varie interpretazioni, fandonia, capriccio, sciocchezza, oppure da mutilus, mozzato, troncato, la connessione con il vuoto, scrivono i linguisti, e quindi con ciò che in quanto cavo non ha fondamento. Parole a vanvera, fandonia, comprese le musse. Quindi diciamo, questa idea che le fake news siano solo una cosa moderna legata al web viene smentita dal secolo XIX, che rintraccia questa antica parola. E soprattutto ci obbliga a usare questo termine, perché visto che tu non ami i termini inglesi, io d'ora in poi le chiamo musse, giusto? Posso? Bellissimo. Ho il diritto? Possiamo farlo. Ho il permesso, scusami. Abbiamo anche una notizia che è un annuncio, un allarme, una petizione. Vai, sentiamo. Questa è la marcia. Chi è che si arrabbia questa volta? Molto sono le pubbliche assistenze italiane e altre associazioni benemerite che vanno in giro con le ambulanze e devono pagare il pedaggio autostradale, perché questo è quello che accade oggi in Italia 2017. Le ambulanze della pubblica assistenza pagano il pedaggio autostradale. Da tempo chiedono di non pagarlo. E adesso c'è una richiesta che è stata nuovamente avanzata alle autorità, al Ministero dei Trasporti, che ha la convenzione con chi gestisce le autostrade, di fare questo. Almeno facciamo un abbonamento per l'ambulanza, se proprio non vogliamo farle gratis. Buone notizie dai giornali di oggi, ne abbiamo. Allora sì, ci sono, sì, delle, sì, notizie. Sì, sì, ci sono, bisogna come sempre spostarsi dalle prime pagine, ma ci sono. E una buona notizia sul Corriere della Sera: Paolo salvato dall'azzardo dei medici, quella tecnica è contro i manuali. È una storia incredibile di un ragazzo di 21 anni che in montagna si fa male, arriva in ospedale praticamente in fin di vita e non sanno come salvarlo perché ha perso troppo sangue e non può essere operato, e quindi decidono, chiedendo il permesso ovviamente anche ai genitori, di usare una tecnica che in teoria non andrebbe usata durante un'emorragia, e tutto questo va bene, e esatto, salvano il ragazzo e siamo tutti felici. L'intuito del medico. Una buona notizia, che è una startup lanciata da un giovane nell'Interland milanese. Sulla prima pagina del Giorno: la macchina che ridà vita ai centesimi e li converte in denaro elettronico, da una startup del milanese. L'idea è quella di fare delle macchine magliette da mettere negli aeroporti, nelle stazioni, nei bar, dove tu metti i centesimi e le teleconverte in denaro da accreditarti su le tue carte, su, anche sul conto corrente. Vedremo se avrà successo questa piccola startup. Poi ancora, beh, però noi abbiamo preparato il piatto con le 5 migliori notizie della settimana. Allora è il momento di certo. Sipo 5. Allora, vado a la quinta. Vai posizione. Con la quinta posizione. Allora, dopo il caffè arriva la pizza in sospeso da Napoli alla Lombardia, in particolare a San Giuliano e a Mediglia, è già realtà. Una iniziativa di Patrizio Daniele, napoletano, doc trapiantato nel milanese, che ha deciso di lanciare la pizza sospesa a vantaggio dei meno abbienti. Con soli 4 euro in più rispetto al conto che puoi pagare in pizzeria, puoi lasciare una margherita pagata per chi non se la può permettere. Piccola generosità anonima che fa bene al cuore. Al quarto posto, la notizia che viene da Roma: al Colosseo, come 2000 anni fa, riapre l'attico. È una buonissima notizia, in realtà poi è spiegato tutta la questione del Colosseo, per cui chi pagava di più si sedeva sul marmo ai piani bassi, chi pagava di meno si sedeva sul legno ai piani alti, però dai piani alti c'aveva una vista straordinaria perché poteva avere una visione d'insieme migliore. Siamo molto contenti che apra questo nuovo pezzetto del Colosseo e continuiamo a seguirlo, anche a seguire il ministro Franceschini che parla della copertura per la quale ha investito 18 milioni, vedremo che cosa succede. Al terzo posto, oggi è la giornata nazionale delle persone con sindrome di Down e sta facendo il giro dei siti e dei giornali la storia di Alice, 23 anni, vive a Roma, che dopo un percorso di formazione ha trovato un lavoro presso la Banca Nazionale del Lavoro ed è forse il primo caso di una persona con sindrome di Down che svolge un lavoro così complesso, addirittura in una banca. È una storia bellissima, come dicono quelli dell'Associazione Italiana Persone con Sindrome di Down, perché il primo inserimento in Italia in un contesto lavorativo così complesso. Ricordiamo che le persone con sindrome di Down sono persone che hanno un cromosoma in più, ma possono raggiungere grandissimi risultati come me e come te, Carlo. Certo. Al secondo posto il gruppo Volkswagen alza l'obiettivo: ridurre l'impatto ambientale del 45% entro il 2025. Ammetto che nel momento che si legge Volkswagen la cosa che ti viene voglia di dire è dire perfetto che li piazzate dei numeri, basta che però poi li manteniate. E perché sennò dire i numeri siamo capaci tutti. Però l'amministratore delegato del gruppo Volkswagen, Matthias Müller, ha detto: è nostro compito proprio come gruppo dare un contributo significativo per arginare il cambiamento climatico e migliorare la qualità nell'area dei centri urbani. Li vogliamo dare fiducia anche perché questo è un'aggiunta, sta un po' cercando di cambiare il paradigma di che cosa significa inquinare, ovvero stiamo ampliando la nostra concezione di sostenibilità ambientale. Non è solo ciò che esce dal tubo di scarico che conta, quindi benzina, diesel, CO2, quello che esce, ma dobbiamo occuparci dell'intero ciclo di vita della mobilità, dalla produzione di energia e delle materie prime fino al riciclo. Ercolini sarebbe molto contento, forse Ercolini ha chiamato in Volkswagen. Magari, tutto potrebbe nascere di lì, tutto dovrebbe nascere da una chiamata di Ercolini. Esatto. Al primo posto abbiamo una notizia importante che riguarda le mini antiuomo, che sono sì al bando, non si possono produrre dal 1999, ma continuano ad esplodere e ad uccidere. Allora l'Italia ha approvato una legge in settimana all'unanimità, 389 sì su 393 votanti alla Camera, che ci pone all'avanguardia in Europa e controlla che cosa? Minuziosamente i meccanismi della finanza per evitare che si possa anche indirettamente andare a finanziare proprio aziende che producono mine antiuomo o bombe a grappolo che appunto sono state messe al bando. Viva, meglio tardi che mai. Si può fare. All right, give me five. All right. Ciao Alessio, ciao Carlo, sono Massimo, sono molto vicino a voi in ordine temporale, sono nel 2022, se alzo un po' la testa vi vedo là nel 2017. Sono emozionato, sono alla velocità di 1000 km all'ora, quasi 1000 km all'ora, sto percorrendo la tratta Montreal-Toronto in 39 minuti. Sono su Hyperloop, è un progetto di cui probabilmente sentite già parlare lì nel 2017. Oggi è inaugurata proprio la prima linea. Si pensa che nei prossimi anni arriveranno anche in Italia. Pensate che Milano-Roma, giusto per darvi un'idea, verrà percorsa in 11 minuti da queste capsule che sono racchiuse all'interno di un tunnel tenuto quasi sottovuoto e il cui motore è un motore che permette un'accelerazione incredibile. Si raggiungono i 400 km all'ora in pochissimi secondi. Insomma, questo è il futuro del trasporto. Solo per dirvi che vi ascolto ancora nel 2022, questo forse vi rassicura. Ci siete ancora nel 2022? Io vi saluto da Hyperloop, sono quasi a Toronto, sono partito 30 minuti fa e sono già arrivato. Incredibile. Ciao! Hai capito, Temporelli? Ci saremo ancora nel 2022. Ma dove però? Speriamo di sì, ma però la notizia di un Milano-Roma in 11 minuti, perché ricordiamo è una notizia vera questo, sì. Cioè parte da un progetto fattibile, pare fattibile. Sempre io non vedo l'ora, posso dire, 11 minuti Milano-Roma. Allora, poi abbiamo Edimburgo-Londra in 50 minuti, oppure Città del Messico, non ce la posso fare, Guadalajara in 38 minuti. Ma quanto costerà? Io vorrei capire quanto costerà, perché se comunque se devi lavorare due anni per poi fare un Milano-Roma, allora vabbè. 800 24 00 24, cari amici, cerchiamo un personaggio della settimana che è un combattente, quindi pensate, si vincono i biglietti per la mostra Egitto al MUDEC di Milano. Chi è un combattente degli ultimi 7 giorni? E poi tra poco parliamo di centri del riuso nelle vostre città, come funziona quando avete un oggetto, un divano, un passeggino, un tavolo che potrebbe non diventare un rifiuto. Cosa fate? Lo buttate per forza alla discarica? Provate a venderlo, non ci riuscite? Ecco, in Lombardia Malnate è una delle prime città che sta sperimentando questo. Faremo un bilancio di un anno di centro del riuso, metà degli oggetti hanno avuto nuova vita. È una buona notizia. 800 24 00 24, tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might have had your fill, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Mauro, ascoltatore, al 349-238-6666, scrive: Mauro, ecco il suo controllo dei fatti. A Gorizia, nessun centro del riciclo, ottima discarica comunale organizzata e pulita. Molti utenti chiedono di poter prendere qualcosa, ma vengono allontanati dagli operatori, perché anche a Gorizia, evidentemente, quello che manca è proprio questo, il centro, esatto, del riuso. Il riuso, perché ce comunque l'abbiamo. Va organizzato, non è semplicemente che si può dire prego prendete le cose, perché c'è tutto un problema anche di sicurezza, esatto. Che poi uno trova l'oggetto però magari poi si fa male. Andiamo a farcelo raccontare dal sindaco di Malnate, dove il centro del riuso ce l'hanno da un bel po', e sentiamo come sta andando. Samuele Astuti, buongiorno e buona domenica, sindaco. Buongiorno, buona domenica a voi. Buongiorno. Allora, sindaco, bello tonico, anche perché so che lei tra poco va in competizione, vero? Si tiene in forma. La competizione adesso, per voler dire, abbiamo organizzato qua a Malnate una camminata, ci sono qualche migliaio di persone con cani, bambini, vestiti in maniera strana, e stanno correndo, e dentro le 9 devo partire perché dopo le 9 non accettano più iscritti. Certo, vabbè, ma come mai vestiti in maniera strana? Ma non so, adesso si usa, io corro da tanti anni, ma è un po' di anni che quando ci sono questo tipo di manifestazioni c'è sempre qualcuno che si inventa un vestito più strano dell'altro. Appena visto passare Superman 5 minuti fa. Ma è per farsi notare dal sindaco magari. No, non penso. Allora, non noi penso. Abbiamo tante curiosità attorno a questo centro del riuso, uno dei primi in Lombardia, uno dei pochi in Italia, bisogna dirlo. Non confondiamo con l'oasi ecologica, con l'isola ecologica dove si portano le cose a morire. Qua si portano le cose a rivivere, a rinascere. Viviamo una seconda vita, infatti. Quando siete partiti? Le faccio tante domande, le facciamo tante domande e tante risposte, così abbiamo tante curiosità. Quando siete partiti? Siamo partiti 2 anni e mezzo fa, nel gennaio del 2015. Qual è il bilancio che si può tracciare? Avete una contabilità degli oggetti portati e recuperati? Sì, c'è una contabilità molto grossa e accurata. Ne abbiamo ritirati nel 2015, nel 2016 più di 4.000. E quanti ne siete riusciti a recuperarne? ne abbiamo riconsegnati, nel senso che sono stati portati via dai nostri cittadini, quasi 2009. Quindi più della metà. Beh, che è tantissimo. Tanta roba. È tanto. E tra l'altro abbiamo raccolto donazioni in questi due anni per 17.000 euro, quindi siamo veramente molto contenti, ecco, e soddisfatti. Qua si arriva all'altro aspetto: come funziona? Perché io arrivo, ho un divano, un passeggino, un tavolo che, di cui voglio disfarmi e ve lo lascio, e lì finisce il lato A della faccia. Poi c'è il lato B di chi arriva. Esatto. Il lato B è che arriva un concittadino che in maniera molto educata e intelligente dice: invece di comprarmi una cosa nuova vado a vedere se ce l'hanno loro nel magazzino del riuso, guarda quello che c'è in giro, sceglie e lascia una piccola donazione. Quindi una donazione com'è, volontaria? Sì, è assolutamente volontaria, che però devo dire tutti lasciano molto, molto volentieri, e questo ci permette anche di raccogliere un piccolo fondo cassa che noi utilizziamo per attività sul nostro territorio che vanno dal sociale ai servizi educativi e soprattutto all'attenzione per i bambini. Ma è volontaria e anche a discrezione dell'acquirente, nel senso che o c'è un tarifario? No, non esiste un vero e proprio tarifario, però diciamo che esistono delle specie di linee guida che noi abbiamo condiviso con i nostri concittadini. Cioè livello 1, 2, 3, se uno piglia un'automobile magari lascia un po' di più di uno che prende un accendino, un comodino. Se li portassero all'interno del centro di riso un'automobile, poi non ci starebbe il resto. Certo. Funziona così, che tutto ciò che è ingombrante, abbiamo una bacheca, quindi qualche motorino, qualche bicicletta, i divani di cui parlava lei prima, vengono affisse le foto in bacheca. Invece all'interno del magazzino ci sono soprattutto... Si va poi a cercare e a rovistare. E sulle foto quindi poi uno va a vederle in casa del proprietario? No, le vede sulle foto, poi contatta direttamente il proprietario e va a prenderla dal proprietario. Certo. Tra l'altro è molto usata, usiamo molto Facebook perché pubblichiamo su Facebook le foto delle cose nuove che arrivano. E quindi questo diciamo che aiuta anche i cittadini a sapere se probabilmente quello che stanno cercando lo trovano, o a stuzzicare la loro voglia di poter portare a casa un oggetto. Io sindaco mi sono sforzato un po' di spiegare perché anche secondo quello che abbiamo imparato dalla strategia zero rifiuti che ci ha raccontato tante volte Rossano Ercolini, che non è un concetto solo ambientale ma è un concetto economico, nasce in Toyota, no? Dove cerca di avere un'economia circolare fin dall'inizio proprio per evitare sprechi. Ci dice lei perché è importante, perché serve una cosa come il centro? Perché io immagino già gli ascoltatori che diranno: beh, ma così si blocca l'economia, perché la gente non va più a comprare il comodino nuovo, no, ma così si evadono le tasse, eccetera. Perché sa che ci sono tanti dubbi, no, da parte delle persone. Sì. Spieghiamo un po'. No, allora, di economia circolare io sento sempre tantissimo parlare, ma vedo fare veramente molto poco sull'economia circolare. Invece questo è un esempio piccolo e semplice che funziona molto bene, tra l'altro gestito tutto da volontari. Ed è importante per due motivi. Ha sicuramente un senso importante dal punto di vista ambientale, nel senso che dando una seconda vita ai prodotti evitiamo di usarne di altri, quindi tutto ciò che comporta la produzione e il consumo di materiale per produrre un nuovo oggetto, da un lato. E dall'altra parte invece c'è una finalità di tipo più sociale che riusciamo a raggiungere da una parte sensibilizzando e dall'altra parte raccogliendo questi fondi che poi vengono impiegati per il bene della nostra città. Ma mi sembra perfetto il discorso, ma le volevo chiedere una cosa: bisogna essere di Malnate? Cioè, sì, quindi quando volete l'ufficio anagrafe è aperto tutte le mattine dalle ore 9 alle 12, potete trasferire la vostra residenza a Malnate. Noi esatto, ma perché mi stavo chiedendo, perché mi sembra molto interessante anche un lato sociale, nel senso che è anche una questione di socializzare fra cittadini, socializzare, un po' ci sarà quel cacchio di divano che continua a passare di famiglia in famiglia, che tutti se lo passano, perché uno dice: no, anche noi l'abbiamo buttato via, ormai l'hanno preso i ricchetti, adesso speriamo che lo ributtino via e continuano a girare gli stessi oggetti, è così? Dicevo che di solito difficilmente gli oggetti poi tornano, però è capitato che qualche oggetto fosse tenuto da qualcuno per una stagione, per esempio estiva, o per un anno perché è adatto al bambino per quell'età e poi forse restituito. Quindi, ma questo è straordinario perché rende di una città quasi una famiglia, dove giustamente i vestiti passano tra figli, tra cugini oppure i passeggini oppure un sacco di cose passano all'interno, quindi è una gigantesca famiglia. Di quanti abitanti è Malnate? 17.000 abitanti. Infatti noi più che città, che comune, quando parliamo anche tra di noi ci definiamo comunità, perché è proprio un po' così. Giusto. Cerchiamo di stare insieme, aiutarci per quello che possiamo. Non sempre ci si può aiutare a trovare una soluzione insieme, però perlomeno ci proviamo tutte le volte. Aggiungo anche che a quello che diceva lei, tra i motivi per cui questa cosa conviene, che poi ogni oggetto che va in discarica, come avviene tradizionalmente, ha un costo per essere smaltito. In questo caso questo costo ce lo risparmiamo e possiamo invece riutilizzare un oggetto che magari funziona. Semplicemente io volevo cambiare il tavolo, lo cambio e quel tavolo può essere utile per qualcuno che magari ha anche meno disponibilità economiche, quindi diventa anche quasi un servizio sociale che il comune fa per le famiglie meno abbienti. Però certo, voi siete in prima linea anche su un'altra cosa, e con questa ci salutiamo, sindaco, ed è quella che riguarda le cacche, o meglio dire più pure le deiezioni dei cani. Insieme a Napoli e qualche altra città state sperimentando che cosa? Allora, diciamo non cacche di iniezioni canine, perché mia nonna, che ha 93 anni, è sicuramente all'ascolto, e quindi se per sbaglio dovessi dire cacche, poi a mezzogiorno quando vado da lei me ne sento. Quindi le iniezioni canine dei cani sono una piaga per chi fa il sindaco, perché giustamente i cittadini si lamentano dei maleducati che lasciano le deiezioni canine sul marciapiedi, soprattutto, e soprattutto si lamentano i bambini, ai quali noi diamo grande attenzione. E quindi insieme all'assessore Riggi abbiamo iniziato ormai 6 mesi fa un percorso in cui stiamo costruendo una gigantesca anagrafe del DNA di tutti i cani di Malnate, che sono circa 2000, e sulla base di questa, a partire da gennaio, andremo a sanzionare chi abbandona o si dimentica in giro la cacca del suo cane. Ma non è troppo addirittura schedare il DNA dei cani? Guardi, io faccio il sindaco ormai da 6 anni e mezzo e le assicuro che abbiamo provato di tutto. Cartelli, abbiamo provato a fare qualche multa, abbiamo coinvolto i bambini che ci hanno aiutato a segnalarci chi lasciava in giro le cacche. Che ora i cani più cagoni, volevo dire, esatto. Però. Esatto, ma esatto. Le volevo chiedere un'altra cosa, questa gigantesca anagrafe del DNA dei cani è a livello nazionale o è solamente a livello... No. Quindi uno... Malnate è vero che ogni tanto pensiamo che sia un comune autonomo, ma è soltanto a livello comunale. Ma, non fate come la Catalogna, che poi finisce. Ma quindi uno di Malnate va e fa fare la cacca al proprio cane a Brunello, in un altro paese? No, allora, abbiamo questo problema, che non potremo evidentemente andare a prendere, diciamo, i cani forestieri che vengono a fare la cacca a Malnate. Quindi diciamo che chi fa il viaggio... Il turismo delle deiezioni, io qua mi fermerei. Esatto. Quello non lo possiamo fare. Io qua mi fermerei. Anche perché rischiamo di arrivare a cagate a casa vostra. Esatto. Io qua mi fermerei, astuti, sì. In un secondo, perché dobbiamo chiudere. Solo ringraziare tantissimo tutti i volontari che ci permettono di tenere aperto il centro del riuso, perché questo grande risultato è grazie a loro, quindi li volevo ringraziare tantissimo. Posso darle un suggerimento? Giustissimo. Con questi 17.000 euro di donazioni, perché non cominciate a pagare una borsa lavoro per qualcuno che magari può fare qualche ora di lavoro anche lì al centro del riuso? La normativa non ci aiuta, in realtà stiamo facendo un progetto su questo insieme a delle associazioni, sì, di categoria, proprio per delle borse lavoro, però lì dentro non è possibile farlo, purtroppo. Va bene, le leggi, la burocrazia italiana, grazie. Complimenti sindaco, grazie. Complimenti. Buona domenica a tutti. Per il riuso, non per il DNA però. Io faccio i complimenti per il riuso, che lo trovo una cosa stupenda, e perché di quanto si occupa dei propri cittadini. Questo il sindaco di Malnate. Si può fare di oggi, e su questo, cari ascoltatori, vi nominiamo controllori dei fatti. Raccontateci come funziona nella vostra città quando avete un oggetto di cui volete disfarvi, ma che potrebbe non diventare direttamente subito un rifiuto. Siamo qua tra poco dopo il traffico. Faircam Air and Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Andiamo con Daniela, che ci chiama da Venezia. Daniela, buongiorno. Buongiorno. Felicissima di sentirvi. Anche grazie. Noi, anche noi. Su cosa volevi intervenire, Daniela? Allora, volevo intervenire su due cose. Prima, la risposta sul combattente, che non è un combattente, ma un grande combattente, e per me è D'Alex Zanatti. Ok. Perché è stato strepitoso veramente nella sua gara di Iron Man questa settimana, e non solo, per il resto della sua vita. Quindi ci stai dando anche la notizia della settimana. combattente assolutamente tutta la vita. Direi bellissimo. Che è uno dei massimi combattenti, ma purtroppo non era il personaggio che abbiamo scelto, signora. Ah, Daniela, mi dispiace molto. Grazie però per averci dato questa indicazione, Daniela, grazie. E aver ricordato la splendida vita, carriera di Zanardi. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene, get on up. Allora, si può fare, e anche questo, domandarsi se corsi di difesa personale, corsi gratuiti organizzati a Milano con i City Angels, che noi conosciamo e apprezziamo per il lavoro che fanno in tante città italiane, è una buona notizia. Noi pensiamo che possa esserlo, ma vogliamo capire qualcosa di più di questo. Mario Furlan, presidente dei City Angels, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, perché corsi di difesa personale che organizzate oggi al Parco Trotter a Milano, ma cose del genere ci sono anche in altre città italiane, perché può essere considerato una buona notizia, non un fallimento del fatto che le donne non possono andare in giro tranquille, sicure? Purtroppo accade, lo Stato cerca di fare quello che può, però... Beh, è una buona notizia perché è uno strumento che mettiamo a disposizione delle donne innanzitutto, ma vengono anche uomini a seguire i nostri corsi. E ci mancherebbe, dobbiamo difenderci anche noi. infatti, chiunque, sì. Sono corsi a cui vengono soprattutto le fasce deboli, donne ma anche persone anziane, ragazzini. In questi 23 anni nei City Angels abbiamo elaborato, anzi già da un po' di anni devo dire, una forma di difesa personale che abbiamo chiamato wilding, dall'inglese wild, selvaggio, che è completamente diversa dalla difesa personale comune. Noi avremmo preferito una parola in italiano, lo sa che Alessio è sempre un po' contrario alle parole in inglese. Siamo un po' fiscali, però vabbè, dai, per Furlan facciamo un'eccezione. Chiamiamola la selvaggina, non lo so. No, wilding dall'inglese wild, selvaggio, perché è la difesa personale che non fa leva sulle tecniche, sulle mosse, ma sull'istinto, sulla nostra parte interiore, la nostra parte atavica. Tirare fuori l'energia che abbiamo, tirar fuori quell'energia che abbiamo. Esattamente. In tutti questi anni sulla strada Milano, Roma, Torino, in 19 città, abbiamo avuto spesse volte a che fare con casi di reato. Noi interveniamo anche in casi di scippo, borseggio, furto, rissa. E ci siamo resi conto che un conto è quello che impari in palestra, che magari fa figo, dove ti insegnano allora fai così e poi così e poi così. E un altro conto è quello che succede nella realtà della strada, dove innanzitutto l'importante è evitare di cacciarsi nei guai. E il wilding, o autodifesa istintiva, è l'autodifesa che si basa tantissimo sulla psicologia, è un'autodifesa psicofisica più psico che fisica. E anche sulla prevenzione, giusto? Bravissimo, il wilding ti insegna proprio le due P, come le chiamiamo, che vuol dire psicologia e prevenzione. Perché se l'autodifesa ti insegna solo a fare a botte, vuol dire che ha sbagliato, deve insegnarti ad evitare di fare a botte, perché ti insegna ad evitare di finire nei guai. Diciamo l'appuntamento di oggi, Furlan, perché siamo quasi in chiusura, chi volesse venire, c'è ancora posto? C'è ancora spazio? Ci si può aggiungere? C'è ancora posto, oggi alle ore 16 al Parco Trotter di Milano, dalle 16 alle 18, 2 ore di questo wilding, autodifesa istintiva, con il sottoscritto, ed è qualcosa che serve per imparare a difenderti sulla strada e anche dal tuo peggior nemico, che sei te stesso. Perché però si che può fare dentro. Anche in altre città, siete presenti? Sì. Lo facciamo in tutte le città in cui siamo presenti, abbiamo anche il sito wildingdefense.com. Ecco, basta, magnifico, abbiamo dato anche i contatti, Furlan, grazie mille, grazie per essere stato con noi. Allora, ascoltatori, 800 24 00 24, cerchiamo un personaggio della settimana che è un combattente. Tra poco, dopo il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Si può fare. Cronache da un paese migliore. And dance the blues. Let's dance Si chiama Yape o Yape, è il primo fattorino robot per le consegne in città, Your Autonomous Pony Express, questo è il nome completo, ed è un robot di ridotte dimensioni che viaggia su due ruote dotate di motori elettrici autonomi grazie a sensori e videocamere in grado di muoversi sui marciapiedi e piste ciclabili per consegnare pacchi fino a 70 kg. È il primo robot per le consegne, il primo fattorino robotico che sia mai circolato in Italia, ha fatto un test a Cremona qualche giorno fa. Io non so se questa sia una buona notizia oppure no, ma buona sì, ma è il futuro, è curiosa però, perché io mi chiedo come fa a citofonare questo quando arriva sotto casa tua, come fa a citofonare, come fa a circolare, è difficilissimo. Ti manderà un SMS, non lo so. Bravo, qualcosa hai farà. Ragione, ti manderà un SMS, ce ne parlerà in... sicuramente Temporelli in uno dei prossimi Si Potrà Fare, esatto, dove ci chiamerà dall'interno di una di queste scatole, perché portano fino a 70 kg. Invece un'altra notizia che viene dall'Islanda: strisce pedonali che si alzano per far rallentare gli automobilisti. Quando l'ho letto ho detto porca misera, questo come? Funzionerebbe moltissimo in Italia, anche perché uno si schianta contro queste strisce pedonali tridimensionali. In invece realtà, no, invece no. In realtà si tratta di un'illusione ottica, perché è semplicemente che fa sembrare le strisce disegnate a terra come se fossero rialzate, perché l'idea si basa sul presupposto che l'unico vero motivo che fa rallentare gli automobilisti è la paura, è avere di sé, avere davanti a sì, qualche cosa. Esatto. Allora, cari ascoltatori, vi aspettiamo perché cerchiamo un personaggio della settimana che è un combattente. 800 24 00 24. Donatella dalla provincia di Lecco, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Prego, Donatella, su cosa volevi intervenire? Io ho pensato a Bebe Vio, che combattente lo è senz'altro, e la notizia è che non so se ha già iniziato, sta per iniziare una trasmissione televisiva con un titolo tra l'altro molto originale. Che è? Il titolo? Ma una cosa tipo La vita è una figata pazzesca o qualcosa del genere. Ah, Bebe Vio. È vero, la notizia. Io lo sapevo, sta sì, per fare un programma sì, sta per fare un programma in televisione, è sicuramente una gigantesca combattente, ma non era il personaggio che avevamo scelto, forse era un po' la trappola nella quale speravamo che cadeste. E ci sono cascata. Esatto. Grazie mille di aver chiamato. Grazie, allora sentiamo anche Franco che chiama dalla provincia di Caserta. Buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Io per sempre per il personaggio. Sì. Pensato al combattente, cioè il combattente per eccezione, il C'è. Il C'è. Il C'è. Il C'è Guevara. Che qual è la notizia che riguarda il C'è Guevara degli ultimi? Proprio oggi. L'anniversario della sua morte, 50 anni. Sì, sì, sì, sì, l'anniversario della morte di Che Guevara, 50 anni. E su molti giornali in realtà c'è ci sono interviste al figlio di Che Guevara che dice: c'è ancora bisogno di mio padre, il mondo non è cambiato. Ci ha scoperto Franco, perché avevamo pensato in effetti a Che Guevara, ma non è lui alla fine che ha vinto e che ha il personaggio che abbiamo scelto, e quindi... sarà più fortunato la prossima volta, ma grazie di aver chiamato. Allora, a questo punto direi che possiamo darlo un altro indizio, forse per il personaggio della settimana. Siamo generosi, anticipiamo un po' i tempi, normalmente sì, sì. Andiamo un po' più avanti. Adesso. Guarda, mi sento anche buono oggi e do un indizio molto facilitante. Il personaggio che stiamo cercando ha una buona intesa con i suoi colleghi. Molto bene, 800 24 00 24 è un combattente, ha una buona intesa coi colleghi. Ah, tra poco ci sarà un'intervista importantissima per quanto riguarda Si Può Fare, il ritorno di Bobo Rondelli ai microfoni di Radio 24. Senza Carlo, perché l'abbiamo dovuta fare in settimana perché lui aveva degli impegni. E Carlo mi spiace moltissimo stesso, però, perché insomma, amo molto Bobo Rondelli. Sentirete tutte le novità dell'ultimo disco, Anime Storte. E poi, cari ascoltatori, vi ricordo di intervenire. Oggi vi vogliamo anche, abbiamo già avuto un paio di interventi come controllori dei fatti. Quali sono i fatti che vi chiediamo di controllare nelle vostre realtà, nelle vostre città? Il fatto è questo: cosa fate quando avete bisogno di disfarvi di un oggetto, che un divano, un comodino, un anche un piccolo elettrodomestico, una bicicletta che non volete più ma che può anche non diventare un rifiuto in discarica perché potrebbe ancora servire a qualcuno. Ci vogliono i centri del riuso, ci sono nelle vostre città, ce ne sono ancora troppo pochi secondo quello che abbiamo capito, imparato della strategia zero rifiuti, che lo ricordiamo, ce l'ha insegnato, lo sa Ercolini, vero Carlo? Non è un concetto solo ambientale, ma certo, anche economico, l'economia circolare, un concetto inventato dalla Toyota. 800 24 00 24, a tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Allora, ci chiama Emilio, credo da Bergamo. Buongiorno Emilio. Sì, buongiorno. Buongiorno. Su cosa volevi intervenire, Emilio? Io volevo intervenire per il gioco. Secondo me il personaggio della settimana è Luigi Manconi, che è un combattente in quanto sta portando avanti questa battaglia importante per lo Ius Solis. È uno di quelli che sta facendo lo sciopero della fame per lo Ius Soli, questo ci stai dicendo, Luigi Manconi, esatto. Luigi Manconi il politico, esatto. E in effetti non era lui. Peccato. Però Emilio, grazie perché ci hai ricordato una notizia. Silenzio, caduta nel vuoto. La notizia, no. Va bene. Sì, va bene Emilio, grazie. La notizia è questa, insomma, che ci sono delle persone che stanno facendo lo sciopero della fame perché venga approvata questa legge. Tra l'altro anche la velina di Striscia la Notizia, questa legge dello Ius Soli, che al di là di come la si pensi sarebbe meglio chiamare Ius Culture, perché non è che chi nasce in Italia con questa legge diventerebbe cittadino italiano, ma bensì chi ha fatto un ciclo di studi oppure figlio di genitori italiani con regolare permesso di soggiorno almeno 5 anni. Walter da Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Io rispondo per il personaggio. Grazie mille e prego, sparala. Allora, secondo me è Nibali, perché è più combattente di lui e anche ha vinto Lombardia. Nibali ciclista, Nibali, giusto? Sì, Nibali ciclista. Che ha vinto sempre fra i primi. Ha vinto Lombardia anche ieri. Il Giro di Lombardia, sì. Nibali, e però ha una buona intesa con i suoi colleghi? Questo era il secondo indizio, chi lo sa? Beh sì, sicuramente è assolutamente centrato, anzi è una cosa tipica che si dice dei ciclisti, l'intesa fra gli altri partecipanti della propria squadra. Ma non era lui, no, però siamo contenti di aver ricordato Nibali e le sue vittorie. Grazie Walter. Allora, grazie, complimenti. Grazie ancora. Continuiamo a cercare all'800 24 00 24 un personaggio che è un combattente e ha una buona intesa con i suoi colleghi. Sotto il sole di Livorno l'anima è pigra e serena pare dica, meglio di qui dove si sta, quasi perdonando alla vita sue brutte cose. Sotto il sole di Livorno lo straniero passa e dice: che bella gente, bei sorrisi, e se poi fa una bevuta trova sempre poi qualcuno racconta la sua vita. Sui tramonti lungomare Dio s'è messo in testa di fare il pittore e l'anima si tinge piena di la avevamo detto che era una puntata speciale, perché la sorpresa è che è tornato a trovarci Bobo Rondelli. Ciao a tutti, ciao a tutti. Io sono felicissimo. Anch'io, sai. No, tu di meno, io di più, anche se, dobbiamo dirlo, lo hai già detto due volte, questa parola che per me è impronunciabile per motivi personali, la città da cui provieni ha questo nome che per me... è fatta così. Però qua si può fare la dimostrazione che Pisani è... Stai parlando della tua supercazzo con favorizzare della tua città, diciamo. No, sì. Della tua. Ah, la mia. Della tua. Secondo me la tua è più... È più peggio. Però qua si può fare e si superano tutti i muri, si fa pace, si diventa amici. Okay, quindi sì. Pisani e... possono essere amici. Vedi. Pisa e... Comunque Livorno, essere... Livorno c'è una, viene un americano a Livorno, vede, eccolo, parte, arriva da dove, da Cielo Stanic, no? Che è uno stabilimento terribile, e subito dice where we are now? Ah, we are in Livorno. Livorno, immediately. Livorno, capito? Quindi però ecco, è proprio questo, perché voi che non siete proprio, siete un po' birichini a Livorno, tu sei il livornese forse per eccellenza, però è da sempre che è così, ce l'ha confermato anche a livello istituzionale il sindaco della tua città, perché quando l'ho intervistato, Massimiliano Allegri, altro livornese, aveva appena ritirato fuori quella vecchia questione, le chiacchiere, le porta via il vento, le biciclette. Sentiamo. Perché i livornesi si portano via le biciclette? È la verità, oltretutto l'hanno rubata anche a me. Ah sì? Anche al sindaco in campagna elettorale, figuratevi, la bicicletta di mio nonno, che era una cosa alla quale tenevo tantissimo, però effettivamente accade. Ecco, questo è quello che ci disse Nogarini, il quale tra l'altro non ha un forte accento livornese. Confermo, no, confermo. Vabbè, lui è della provincia annessa. Ecco, provincia è diverso. Come in antica Roma c'erano le province annesse, mi sembra Castiglioncello, Rosignano. Qualcosa del genere. Questa storia delle bici, tu che rapporto hai con le bici? Le usi, le rubi o te le rubano? Io, per esempio, ho un personaggio che si chiama lo psico ciclabile. Praticamente me ne hanno talmente rubate che mi sono comprato queste pieghevoli portatili, me le porto in casa, poi esco vestito da ciclista. Vado in giro e poi con la chitarra senza mani alle volte ho cantato Sole Mio. Ma che meraviglia, tutto vero. Questo sì, è tutto, ho fatto un video che questo si chiama è tutto vero. Lo psico ciclabile. Allora, Bobo Rondelli torna, l'avete sentito un brano, cartolina di giornata, un pezzo di un brano con un nuovo disco. Già questa è una buona notizia per i tuoi seguaci, per i tuoi followers, anche se qui già su followers, perché questo disco, Anime Storte, è un po' anche una... vuol dire un'entrata in questo discorso dei social, di come si sta in quest'epoca di social. Si sta soli, e questo è il pezzo principale che magari tra poco sentiremo. Come nasce questo disco che c'ha questo nome De Andreiano, no? Anime morte, anime storte, no, lui c'era Anime Salve. Anime Salve, bravo, sì. Anime storte, no, mi piaceva, sì, probabilmente il suono mi piaceva perché precedentemente c'era quello di De Andrea. Ma sai, l'idea di essere storti... nella vita mi piacciono anche le donne che magari hanno un nasone, che so, oppure diciamo dei glutei più, cioè, soprattutto quello. La bellezza vera delle cose alla fine è storta, la bellezza quando è perfetta offende, no? E così anche la poesia, se vogliamo, è sgrammatica, è quella parola storta, che è anche Elvis, ora sto scavolando, però Elvis effettivamente prese un premio, no? Come un uomo importante per il mondo, gli detto, disse tre frasi, una mi ricordo, disse leggevo fumetti, poi sono diventato un fumetto, e poi disse che la strada senza rock and roll non avrebbe avuto nessuna curva storta. Ecco, quindi, e poi insomma questo concetto all'essere storti c'è sempre stato un po' nelle tue canzoni, nel tuo mondo, forse è quello che in qualche modo anche ci accomuna con Si Può Fare. Anche a noi piace raccontare storie di un certo tipo da questo punto di vista. Però sentiamolo un pezzetto di questo brano, Soli, che è un po', mi verrebbe da dire l'architrave, ma è una parolaccia bruttissima che per niente poetica, un pezzo importante di questo disco, sentiamo. Sola, quanta gente sola. che si fa una foto per non sentire il vuoto nell'anima sola, sola. Quanta gente in fila, che ci sono i saldi di fine stagione. Non siamo andati al mare, pieno di gente sola, noi due come coglioni, a sperar che ancora il mondo migliora. Fira l'inganno per possedere tutto, per ritrovarsi soli, più poveri e più soli. E va bene, questo è un pezzo di questo Soli che da proprio da queste ore sta cominciando a girare nelle radio. C'è un altro passaggio più avanti nel quale dice fingersi felice con 100 mi piace, no? Sei partito da te per fare un po' questo racconto di questo diciamo nostro presente, dove questa vita di amicizie virtuali convive però anche con questo senso un po', è vero, di solitudine rappresentato da questo sguardo fisso sullo smartphone, o ti sei guardato intorno? Tu che rapporto osservo c'hai? Mia figlia di 19 anni, ecco. Mio figlio di 15, ecco. Alle volte, se andiamo a cena fuori, io cambio tavolo perché in continuazione i pollici sono lì sopra. Mi viene da dire perché questo erotismo col pollice. Ai miei tempi c'era un erotismo più analogico. È troppo. Va bene. È un po' spinta per l'orario. No, vabbè. Erotismo analogico si può anche dire, sì. Insomma, non è niente di troppo grave. Quindi, osservando i tuoi figli, ma tu in particolare lo vorranno sapere chi ti segue, insomma, i tuoi... Io comunque ho uno che si occupa del mio... Dei tuoi problemi, Facebook. No? Del mio Facebook, il profilo, quella roba lì. Non tanto, no, perché poi chi ha qualcosa interessante da fare poi alla fine non si non perde. Ci sta. Secondo me non si perde troppo, c'è abbastanza... una certa mediocrità, vorrei dire, però non voglio condannare, non voglio dire, magari in un periodo della mia vita può capitare anche a me, però... Cosa ti disturba di più? L'hai detto, no? I tuoi figli o chiunque sia davanti a te che in quel momento sta digitando, sì, guardando, vabbè, sullo smartphone. Oppure, disturba che non, vediamo sì, quanto non sei suocera in questo senso. No, non si parla più a quattro occhi, insomma, guardandosi negli occhi, sempre lì. E poi mi disturba anche che nei social alle volte c'è questo buonismo finto. In realtà poi... C'è anche tanta cattiveria però. Mi sembra lapidazione, capito, di mettere a rogo una persona che magari ha fatto la pipì in un parco, che ne so, ha fotografato, messo sì. lì, magari soffre di incontinenza, capito? Subito a denunciare queste alle volte, tesi sì. estreme che sono un po'... Sembra un po' essere finiti dentro un 1984 di Orwell, però governato dalla pazzia di tutti. Allora, però, in questo ti sei un po' allineato con altri, perché anche altri cantautori hanno affrontato questo tema, i più, diciamo, in voga quest'estate, Fedez, J-Ax con Vorrei ma non posto, no? Quindi però loro sui social ci vivono parecchio, Fedez in particolare. Tu, no, ti senti un po' l'anti-Fedez? Non te ne frega niente? Non so esattamente chi sia, non chi l'ho seguito, Fedez? No, non è il mio mondo, c'è ancora... da sentire tanta musica, no? Mi preoccupa il fatto che non conosco bene Vivaldi, e questo no. Sì, cioè, ma anche io stesso non mi ascolterei di Fedez. Si parla tanto, però Fedez. Se chiedi in giro una canzone di Fedez probabilmente molti rimangono così, come una canzone, perché canta, eh sì, questo non fa, so, pare. Fa anche il giudice di X Factor, un talent musicale, nonostante una volta abbia una proposta, feci una riunione per fare X Factor, a dire la verità. Ma questa l'avevi già raccontata sta cosa, no? O è una notizia? No, è vero, l'ho raccontata stamani a Mediaset, sì. È vero, no? Feci una riunione nel periodo che c'era il figlio de Pooh, che si chiama Facchinetti. Certo. Facchinetti, perché il mio disco forse delle prime edizioni avevano mandato via Morgan, quindi sì. cercavano un degno sostituto, un altro soggetto, insomma, più, diciamo, tra virgolette, un po' punk alle volte, no? Però insomma io non dissi che non ho tanto mai visto la trasmissione, mi disse questo poteva già essere grazie, un piccolo handicap. Arrivederci, grazie, va bene, la chiameremo. Ma adesso no, sono passati alcuni anni, forse... Però mi disse, allora perché è venuta qua? E ecco, disse, pure. Perché te sei qua? Detto, io per i soldi, te? Dissi, cioè, cercavo... Però posso dire, avresti tanto da secondo me, da insegnare, da raccontare, da parlare a dei giovani aspiranti musicisti. Può sembrare una banalità, un luogo comune. You know, maybe you can play blues. Ecco. You know, if I play blues like this. I'm gonna tell you what it's gonna be. You gonna give your life to me. I wanna live a night and day. You listen when I play guitar. Secondo me dovresti aprirlo tu, un talent sì, fatto in quella città dal nome per me impronunciabile per motivi personali. A proposito di Livorno, però c'è stata un'iniziativa di cui tu sei stato uno dei protagonisti dopo l'alluvione, Bella Livorno, che tra l'altro richiama il titolo di una canzone. Sì, hanno scelto una mia canzone. Vi avrei evitato perché ho paura, alle volte possa essere sciacallaggio sentimentale. Ecco, però qualcuno aveva scelto, che non ho detto di no. Però insomma, però è stato bello, insomma, a parte raccogliere un po' di soldi, sì. Niente che possa cambiare la vita, sì, certo, chi è una goccia rispetto ad anni, certo, poi non si restituiscono nemmeno le persone, purtroppo. Quello certo. Annegate nel fango. No, dicevo sì, è stato bello però trovare tanto calore nella città, nei ragazzi, i cosiddetti bimbi del fango, che sono andati a aiutare, a dare una mano. Sono tutti accorsi, ecco. Si può ancora dare una mano, perché c'è una pagina Facebook dove c'è scritto Liban, dove chiunque vuole può... Anche un pisano, certo. Sono venuti a suonare due musicisti pisani, che sarebbero Andrea Pino di Legion Circus, certo, e Motta, che anche lui è pisano, però figlio di livornesi. Ma io, per esempio, mio padre Emiliano, non c'entro niente proprio nemmeno con la Toscana. Capisci? Ho cercato le mie radici, mi chiamo Rondelli vuol dire, insomma, e Rondelli, Roberto Rondelli, ci fai l'anagramma, Bordelli tornerò. Hai capito? A parte il fatto che ti sorprenderò, ma Rondelli è anche il cognome di mia moglie. Non l'ho scelta per questo, però. Ma davvero? Ma allora Emiliano, che lei? Tosco Emiliano, d'Appennino. Cioè, mio padre è d'Appennino. Ci sarà un seguito? Bella Livorno? Fate qualcos'altro? O no, per il momento? Io, sai, non sono un organizzatore. Se mi chiamano, vado. A me piace poi andare, sai, anche la mattina in ospedale o nelle scuole con i ragazzi, anche perché poi non intaccano, diciamo, le mie serate, nel senso che capita di non fare tante serate. Se le fai tutte per beneficenza, finisci poi cosa ridai a tuo figlio. Però la mattina nelle scuole, negli ospedali, insomma... Qualcosa sempre, si fa. Tu, a proposito di beneficenza, si può fare, tu sei anche presidente di un'associazione benemerita che si occupa di un tema molto importante, che è quello dei figli illegittimi. L'hai detto poco fa. Sì, io però sono, diciamo, solo segretario. Il presidente è un certo Paolo Mastroianni, così lui si vuol chiamare, ma non gli hanno... Sì, effettivamente, sì, adesso parlo io, per favore. Sì, effettivamente, non mi hanno riconosciuto questa faccenda, perché mia madre faceva la pulizia una villa a Castiglioncello, dove Marcello Mastroianni andava sempre, e si sente dalla voce praticamente che io ne sono figlio, ma non voglio riconoscermi questa eredità. Ma allora ho creato un'associazione, ha capito? Ho creato un'associazione e siamo tanti. Non ci sei adesso solo chiamo... Sì, c'è anche Ughino. Sì, sono io. Sono Ughino Tognazzi, ovviamente, perché anch'io sono un figlio legittimo, così scaricato in questo mondo, voi capite, senza una lira. Fantastico. Ma questa voce qua di Mastroianni è stata usata anche per qualche pubblicità o sbaglio? Qualcosa, no? Sì, certamente. Devo dire che mi ci sono rifatto i denti, vedete? Dietro i miei denti c'è scritto "Grazie Marcello", scritto dietro, perché era la Citroen. E la Citroen pagò fior di quattrini per fare questa pubblicità. Purtroppo altre automobili. Se qualcuno avesse bisogno della voce di Cotognazzi, sono qui. Siamo qua. Sì. Io con questa chiuderei ricordando le date, tra l'altro, dei tuoi concerti, che con cui porterai avanti il nuovo disco, Anime Storte. Ma credo che, come sempre, si sentiranno anche le storiche canzoni. Non è che ti vergogni, perché hai scritto canzoni super ironiche, con parolacce. Posso finire una canzone ironica? Sì. Ok. che gran fregatura è l'amor che dà sempre il meglio di sé. E poi sparisce e ritorna quel che è. Che palle stare insieme a te. Anche per me. 4 novembre a Firenze, 25 novembre a Livorno, 30 novembre a Bologna, 9 dicembre a Torino, e poi ci saranno delle date anche a Roma il 12 gennaio e a Milano 18 gennaio. Sì. Ci sarò. Grazie Bobo Rondelli. A Pisa anche c'è una data, no? No, non è vero. Questa è una battutaccia. Ciao Bobo. Ciao, ciao, grazie. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccolo qua. Allora, cari ascoltatori, 9:37 minuti, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Buongiorno e buona domenica da Carlo Gabardini. Hai sentito Bobo Rondel? Sì, sì, mi piace sempre, sempre. Nonostante abbia la voce un po' mestolina, lui però è stupendo, un grande artista. L'avevano contattato anche per questa notizia, per quella fare il giudice di X Factor. Ma però... pensa un X Factor con Bobo Rondelli, ma sarebbe straordinario, straordinario. Volevo leggerti un messaggino, sì. Volevo leggerti un SMS che ci è arrivato che dice: spero tanto che i politicastri sinistrosi, i quali stanno facendo lo sciopero della fame per lo Ius Sola, per far entrare più negri possibili in Italia, possano pare oggi stesso, scritto con due P, magari morissero di fame ste, scritto non con l'apostrofo in testa ma con un incredibile accento in coda, ste canaglia famma popolo, purché con l'accento sbagliato sia italiano, parentesi chiusa, spazio, punto, spazio, e voglia fargli pure pubblicità, puntini, solo due di sospensione, che schifo, con la K e due F. Io vorrei dire a questo ascoltatore: se sai l'italiano così, secondo me lascia il posto a un immigrato e che noi ne saremo molto più felici, perché almeno dico una regola giusta, una parola giusta, non dico la grammatica, ma almeno l'ortografia. Ma forse è lui stesso l'immigrato. Allora, i cittadini di Malnate, chiede Maglio da Imperia, sono malnati? Vabbè, questa è così. Poi c'è un controllore dei fatti, ci scrive che anche a Solbiate il sindaco Borghi ha introdotto il centro del riuso, primo comune della provincia di Como, però vedete che non sono molti comuni. A Genova ci scrivono, viene usata con grande efficacia la pagina gruppo Facebook, per fare quello che abbiamo raccontato viene fatto a Malnate anche col gruppo Facebook, ma c'è proprio un centro del riuso nel quale tu puoi andare e fisicamente gli oggetti sono lì e tu puoi sceglierli, prendere qualcosa, basta fare una donazione e il tavolino o la sedia o il comodino o la radio o la bicicletta, qualunque cosa può tornare a così a circolazione. Dall'estero ci arriva un SMS che dice: qui a Vienna funziona molto bene l'angolo condominiale del riuso, un posto dove mettere oggetti ancora funzionanti che potrebbero essere utili ai vicini, quindi è ancora più in piccolo, ancora più in piccolo. Bene. Mario da Reggio Emilia, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Eccolo qua Mario, che ci dici? La risposta per me è Franco Baresi, personaggio della settimana. Perché? Sì, perché io mi ricordo la pubblicità di Intesa e quindi è stato quello l'indizio. Baresi e Costa Curta, un'intesa vincente. Come la nuova linea viso corpo Intesa Puro. Era questa? Sì. Ma in regia abbiamo un mago, assolutamente. Un mago e quindi Lucella. Intesa il deodorante, se non ricordo male. Insomma, giusto? Sì, sì. È tutto giusto ma tutto sbagliato. Tutto giusto ma tutto sbagliato. Mario, non era questo il personaggio che ci stiamo cercando, che è un anche combattente. Se posso dire, sicuramente un combattente, ma questa pubblicità non mi sembra esattamente dell'ultima settimana, o sbaglio? No, in effetti credo di no, Mario. Questa pubblicità quanti anni avrà? Almeno 20. Esatto. Bah, che fantastico. Sei andato a scavare con questa parola intesa nella memoria e sei risalito fin là. Noi abbiamo detto come secondo indizio che ha una buona intesa con i colleghi. Senti qua, questa però in effetti ad honorem quasi gli andrebbe dato. Sì, sì. Solo per la memoria. Se nessuno indovina, ad honorem andrai tu a vedere la mostra Egitto al MUDEC. Allora abbiamo ancora Maria intanto che ci chiama dalla provincia di Milano. Benvenuta Maria. Buongiorno. Buongiorno. Cosa io volevo intervenire sul fattore del riuso, insomma. Sì, cosa volevi una dirci? Una famiglia qualunque può mercatino, una bancarella, a chi si deve rivolgere, chi ha, quando ha tanta roba da smaltire, se lo può fare in privato anche. Non si sa come fare per smaltirle. Non lo questo so a chi rivolgermi, se rivolgermi al comune. Ha ragione, ma lei avrebbe delle cose da smaltire, questo ci sta dicendo? Io avrei tante cose da smaltire per bambini, per adulti, temo mia famiglia, dei miei figli che smaltiscono in continuazione. Temo che il modo migliore sia andare su internet, nei siti di libero scambio, dove diciamo anche in quelli dove si compra dell'usato, basta mettere a zero lire se si intende regalarli, oppure mettere dei prezzi molto bassi e così non si pagano le spedizioni, perché le spedizioni possono essere a carico dell'acquirente. Dovremmo fare un programma di annunci, forse potrebbe essere utile. Però Maria, come ascoltatore e controllore dei fatti, ci conferma che manca questa cosa del centro del riuso. Qua per esempio siamo a Milano. Andiamo ancora con Gianni, che ci chiama sempre da Milano. Benvenuto Gianni. Buongiorno. Buongiorno. Telefono per il personaggio della settimana. Sì, chi è? Per me è Andrea Bocelli, in quanto è stato appunto presentato in televisione, sono sceneggiato in televisione sulla sua vita. È un combattente, perché nella sua vita ne ha affrontati di tutti i colori, le ha sempre superate, e anche una buona intesa con tutti i suoi colleghi, perché spesso fa concerti con... Fa duetti, è vero. Cacchio Gianni, ma sai che questa risposta, che però non è quella giusta e mi dispiace, è diciamo che allinea questi due indizi in maniera discreta, in maniera molto buona anche qua. Abbiamo, tanti vincitori ad onore. Esatto. Però se nessuno indovina, vincerete andiamo noi a vedere la mostra Egitto. No, andando agli ascoltatori che più si sono avvicinati. Proviamo con Stella, che chiama da Bergamo. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Allora, telefono per il personaggio della settimana. Per me è e resta comunque Valentino Rossi. Cioè di tutte le settimane sempre, dell'anno? Sempre, comunque. Sempre? Sì. Tutti sì. I mesi, giusto. Perché, e come mai? Come mai? Perché è un gran combattente, perché nonostante l'incidente che ha avuto dopo pochi giorni, più o meno pochi giorni, sì, dall'incidente, era ha in ripreso cella. A correre. E l'intesa con i colleghi, che mi sembra che ultimamente è un personaggio simpaticissimo, che sì, non può essere antipatico nemmeno ai colleghi. Ma su questo, guardi, a me sta simpaticissimo, ovviamente tifo per lui, però direi che i colleghi, ovvero gli altri piloti, ultimamente, negli ultimi 3-4 anni, fra spinte, accuse a vicenda, diciamo che quell'indizio non è centrato perfettamente. Per il resto assolutamente sì, ma purtroppo non era il nostro personaggio. Ci stiamo girando attorno, Stella. Grazie per aver partecipato. Anche a noi ci fa piacere salutarvi, augurarvi una felice settimana. Grazie mille. Grazie Stella, anche a te. Margherita da Udine. Pronto? Benvenuta Margherita, su cosa volevi Buongiorno. Intervenire? Dunque, sulla differenziata. Sì. Udine è molto ben organizzato, perché sono cassonetto dappertutto. Poi ha preso è tra i primi 10 in Italia come livello di vita, e poi ha preso anche... Aspetta un attimo, ok. Sì. Adesso, guarda, momento proloco di Margherita da Udine. Cosa è successo? Però si è interrotta. Poi, dunque, tu ben organizzato. Margherita, ti riporto al tema, perché noi oggi vi chiediamo, ascoltatori, di controllare questo fatto. Il fatto è vero che nelle nostre città mancano i centri di riuso, cioè infatti questo è un bel centro grande dove si può conferire tutto quello che è ingombrante. Sì. Che non può essere messo nei cassonetti che sono distribuiti da però Margherita, ecco. È un'isola ecologica dove si portano gli oggetti a diventare rifiuti. Ma noi in realtà ci stiamo occupando di quei posti dove si portano gli oggetti, ma non per ammazzarli, ma per far vivere una seconda volta, quindi dove altre persone... È una bellissima idea, infatti volevo proporre proprio al comune di Brava. Fare anche qui questa... Perfetto, ecco, allora la trasmissione per... la facciamo ambasciatrice in questo momento di si può fare, vada dal sindaco e faccia in modo che anche lui crei un'isola di questo tipo e poi ci chiami. È ancora Furio Onsel il sindaco di Udine o no? Pronto? Pronto? È ancora Furio Onsel il sindaco di Udine o sì, no? Sì, ancora Furio Onsel. Ecco, sì, allora sì. È anche un personaggio pubblico, quindi rivolgiamo un appello. Un bel livello di vita, l'assistenza al teatro. Sì. Però queste sono altre cose, Margherita, che intanto va avanti col suo momento proloco per così diciamo caldeggiare Udine. Grazie Margherita. Andiamo con Luigi prima di andare sul traffico da Milano. Vai Luigi. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io chiamavo per il personaggio. Chi sarebbe? Secondo me è Katia Ghirardi. E chi sarebbe di nuovo? La direttrice di banca della Banca Intesa, che ha fatto quel bel video su YouTube, credo, è girato, è stata un po' presa in giro, però è stata anche molto difesa. Un video, credo fosse un video motivazionale interno, sì, di quelli che girano, sì, le aziende. Sì, sì. Il risultato non era a livelli, diciamo, di come dire. Non era Sergio Leone. Non era Sergio Leone, bravo, bravo, bravo, l'hai detto bene. Tu, quindi è stata dileggiata, presa in giro. Poi però è stata difesa, perché giustamente si è detto un video nato per... Ma facciamo partire l'applauso intanto, sì. Eccolo qua. Stavamo tutti aspettando, Alessio. Sì. No, perché volevo raccontare, esatto, la notizia. Esatto, è questo il personaggio. Che vai. Luigi ha indovinato, però diciamo che sulla notizia ci stavamo arrivando. Insomma, è stata dileggiata, poi è stata difesa, perché poverina era semplicemente impegnata in uno di questi video motivazionali aziendali, quindi prenderla in giro era una crudeltà. Sono semmai le aziende che ci sottopongono a volte tutti a queste cose di siamo una grande famiglia, poi non è vero per niente. Ci abbiamo anche un J-Ax su questo. In difesa. In difesa. Lo confesso, anch'io ho riso. Poi ho pensato, ma il mio divertimento che cosa comporta per quelle persone? Quando una cosa diventa virale, tutta Italia lo vede, la reazione più comune è stata quella di prendere in giro la protagonista e gli altri partecipanti del video. Quando sei un personaggio pubblico, vabbè, la merda te la prendi e ti ci abitui. Ma provate ad immaginare 40 milioni di persone che improvvisamente si prendono gioco di voi e vi insultano. L'anno scorso una ragazza si è ammazzata dopo la diffusione di un video che doveva rimanere privato. Per questo anch'io voglio dire, forza Katia, non ti fare spaventare da chi ti insulta online, sono solo gelosi della tua libertà. E anche noi possiamo dirlo forte, stiamo tutti con Katia. Grazie Luigi. J-Ax direi che ha il conto a Banca Intesa, no? Così a sensazione. Luigi, ti porti a casa i biglietti per la mostra Egitto al MUDEC di Milano. Grazie, complimenti. Traffico. Vercam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Vercam.com vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, una precisazione, perché c'è un ascoltatore che dice: ma li leggete i messaggi WhatsApp? Cazzarola, dice, ho indovinato prima io dell'ascoltatore. Caro ascoltatore, non valgono i messaggi WhatsApp. No, non valgono nemmeno gli SMS, perché a essere precisi c'è anche chi ci aveva scritto ben un po' di tempo fa, tanto tempo fa che non lo ritrovo. Ciao Paolo, dov'è? Paolo, esatto, quello che stava sto impazzendo. Impazzendo perché sono a letto accanto a mio figlio che Bellissimo. Dorme e non posso chiamarvi per il personaggio della settimana. Impazzisco perché il secondo indizio è talmente sfacciato che non capisco i tre che hanno sbagliato. Si vincessero soldi, me li accreditereste su un conto Banca Intesa? Quindi anche senza fare spoiler, senza dirlo, però insomma è vero, avresti vinto se avessi telefonato, perché bisogna non chiamare, valgono i messaggi. E direi che a questo punto vai con tuo figlio a vedere la mostra sull'Egitto e fai pagare i biglietti a tuo figlio. Poi c'è un altro ascoltatore, controllore dei fatti, che dice: in Val Bormida noi qui abbiamo, per quanto riguarda il riuso, un ottimo mercatino dell'usato di cui usufruiscono tutti, abbigliamento, casa, libri, dischi eccetera. Quindi però c'è il mercatino, non c'è un vero e proprio centro di riuso, siamo al volontariato, vedete? È molto Italia, diverso anche perché il mercatino temo che ci siano persone che sono lì a vendere in realtà, cioè la o cosa che funziona. Però insomma, quando è istituzionale, quando è gratuito, come dicevi tu, è un'altra cosa. Adesso parliamo del bando Valore Paese Fari. Di che si parla? Sentite qua. No, non c'è la musica. Abbiamo già introdotto. C'era la musica dei fari? Lorenzo Malafarina, buongiorno, benvenuto. Andiamo così. Intanto siamo. Buona domenica. siamo tra amici. Buona domenica. Imprenditore milanese, lui ha partecipato alle prime due edizioni del bando Valore Paese Fari dell'Agenzia del Demanio, che rimette in circolo, anche in questo caso, nuova vita a Torri e Fari. La notizia è che c'è un altro bando per riqualificare 17 di questi Torri e Fari sulle coste italiane, e noi parliamo con chi uno di questi bandi lo ha già vinto in precedenza. Ne ha vinto più di uno, se non sbaglio. Più di uno. Sì, esattamente. Prima è quello del 2015, poi successivamente quello del 2016, sempre nelle stesse isole delle Egadi. Quindi prima a Levanzo e poi a Marettimo. Ecco, e per riqualificare che cosa in questo caso, Lorenzo? Per riqualificare dei fari. Dei fari. Cioè proprio i fari, quelli che uno vede, quelli alti, i fari, insomma. Esattamente, non sono così alti, alti, però... Ma quanto si paga di affitto? Scusa, faccio la domanda così un po' a gamba tesa. Per affittare un faro. Allora, l'affitto forse è uno dei costi meno forti per un'operazione di questo tipo, nel senso che è libero e quindi nella gara viene... è un'offerta libera. Io in entrambi mi pare adesso di ricordare uno 20 e l'altro 25 mila euro all'anno, una cosa del genere. Poi perché il vero costo è la ristrutturazione, è il rirenderlo attivo. Esatto. E farci partire poi anche addirittura una attività economica. Esattamente, devi partire con le attività economiche, quindi devi fare marketing, devi fare una serie di cose per l'attività. Però è una condizione nella quale un imprenditore, perché tu gestivi già degli alberghi prima delle attività, vero? Sì, io gestivo già degli alberghi precedentemente, circa 20-25 anni che faccio questo mestiere tra alberghi e ristorazione. Quindi da imprenditore che ha vinto il bando, se io ti chiedessi questi bandi funzionano, sono appetibili per gli imprenditori, ovviamente la risposta è telefonata, sì, perché lo hai appena vinto, ma possono partecipare anche piccoli gruppi di imprenditori giovani, magari cooperative? Diciamo non chi lo fa da 25 anni, esatto. O dei consorzi di giovani che decidono di gestire un faro. Ce la potrebbero fare? Assolutamente sì, nel senso che quello che conta è il progetto. Vi faccio il mio esempio, comunque sì. Nel bando di Levanzo alla fine avevo due competitors che erano decisamente forti, uno era Bertelli e l'altro era Gualtiero Macchesi, e alla fine comunque me lo sono aggiudicato io, quindi... d'accordo, no, perché diciamo che Gualtiero Macchesi e Bertelli non sono esattamente due consorzi di giovani. Non sono due consorzi di giovani, un po' per uno e un po' per l'altro. È lei il consorzio di giovani in realtà, quindi ci sta dicendo. In questo senso, in questa occasione... poteva anche essere questo, no, ci chiedevamo se erano dei progetti anche che potevano partire dal basso o se era solamente un bando dedicato a persone che lo fanno di professione o che lo fanno da molti anni o che hanno un nome come Gualtiero Marchesi. No, allora, di primo all'ultima ha già risposto, ha perso, quindi magari giusto. Ottima risposta. Può partecipare chiunque, consorzi di questo genere, giovani imprenditori sicuramente che possono partecipare. Bisogna avere delle basi economiche, ecco, questo sicuramente. Ma io credo sì. La base economica ovviamente per qualsiasi tipo di attività, però su un tema come questo, un faro, quindi ricostruire un faro e portarlo a essere un albergo, un boutique hotel, perché sono tutti mediamente ovviamente piccoli, credo che la finanza uno la possa anche trovare, insomma, sul mercato. Certo. Non riesci a trovare chi è interessato, che magari ha capitali, e lo fa con te. Questo. E se non trovi la finanza, sarà la finanza a trovare te. E con questo direi che possiamo chiudere. Grazie Lorenzo Malafarina, abbiamo esaurito il tempo, però lui è un imprenditore che ha vinto il bando Valore Paese Fari. È un modo anche per cambiare vita. Sai quante volte uno sogna, che bello andare a fare il guardiano di un'isola, no? Vero. Qua. Devo dire una cosa velocissima. Sì. Stasera alle 21 sarò a Lissone, in piazza 4 novembre, a fare un match di pugilato letterario contro Cinzia Poli, che è una nostra collega di un'altra radio, come Alessio sai, di Caterpillar. Il giudice sarà Marco Ardemagni. Io difendo le 8 montagne di Paolo Cognetti, Cinzia Poli lo attacca, quindi a Lissone stasera alle 21, volevo dirvelo. Si può fare, un programma realizzato da voi e da noi, da Andrea Piana, Claudia Schiettone, Laura Vanossi e Carmelo Ricella, oggi in regia. Ciao a tutti, a sabato prossimo da Alessio Maurizio. E ciao a tutti da Carlo Gabardini.